La geopolitica del Covid, vaccini e buoi dei paesi tuoi. Benvenuti a una nuova puntata. Nessun luogo è lontano di Giampaolo Musumeci. This morning, Russia says it's hoping to produce 500 million doses of the world's first registered coronavirus vaccine. The experimental Chinese effort is still in phase 3 clinical trials, significantly short of the typical safety standards for vaccine development. I'm not going to give you a question. You are fake news. I hear a sound of victory. Buona giornata e ben ritrovati, gentili ascoltatrici, gentili ascoltatori. Vi porgo i saluti anche da parte di tutta la squadra di Nessun Luogo Lontano. Antonio Tali, Andrea Macchioni, Valentina Ternullo, in regia Valeria Bernardi. Così come vi ricordo il numero da comporre per SMS e WhatsApp, domande e commenti 349-238-6666. Vi ricordo anche che siamo sui social, Facebook, Nessun Luogo Lontano trattino Radio 24, Twitter, Nessun Luogo 24, ovvero Giampaz. Mentre le case farmaceutiche fanno a gara rincorrendo tassi di efficacia dei loro vaccini sempre più alti, la geopolitica del vaccino affila le sue armi, mette a fuoco le sue ambizioni. Alcuni grandi attori internazionali sono pronti e stanno già usando il vaccino come formidabile leva per penetrare mercati, ridisegnare gli equilibri mondiali, per fare cassa, per guadagnare rilevanza. Russia, Cina, Stati Uniti, Europa hanno posture diverse, c'è un uso diverso dei fondi pubblici, finanziamenti di aziende diverse. Ma una cosa è certa, il mondo che conoscevamo oramai non esiste più da un pezzo. Ma siamo sicuri che il vaccino curerà tutto? Questo è il tema che vi proponiamo in questa puntata di Nessun Luogo è Lontano. Intanto andiamo immediatamente a sfogliare i nostri dossier. Il primo ci porta in Israele e in West Bank, perché il segretario di Stato americano Mike Pompeo ha visitato oggi un insediamento israeliano proprio in Cisgiordania. È il funzionario più alto in grado ad aver mai visitato uno degli insediamenti, considerati una violazione della legge internazionale dalla maggior parte della comunità internazionale. Ha aggiunto anche una stoccata a quel movimento che vorrebbe boicottare quelle che sono le merci israeliane o imporre sanzioni su Israele stesso. Ha detto: per l'amministrazione Trump qualsiasi campagna per boicottare o imporre sanzioni è un atto di antisemitismo. Considerando poi il legame sempre più stretto tra gli insediamenti e le comunità cristiane evangeliche statunitensi, molti commentatori hanno visto la visita di Pompeo come una mossa per accreditarsi, pensate, alle nomination repubblicane nella corsa alla presidenza del 2014. E poi c'è una breaking che, proprio mentre vi parlo, dalla redazione mi segnalano: gli sforzi nefasti dell'etichettatura della UE facilitano il boicottaggio delle aziende israeliane. Lo ha scritto su Twitter proprio Mike Pompeo al termine della visita a un'azienda vinicola di Psagot, insediamento israeliano in Cisgiordania. Gli Stati Uniti sono a fianco di Israele, ha concluso, non tollereranno alcuna delegittimazione. E questo è un dossier caldissimo, staremo a vedere se la prossima presidenza statunitense riuscirà a raccogliere e a gestire il dossier appunto degli equilibri e dei rapporti con Israele, ma anche con i palestinesi. Così come caldissimo è quel dossier di cui vi davamo conto nelle scorse puntate, quello australiano relativo per l'Afghanistan, si è conclusa oggi con la messa in stato d'accusa per crimini di guerra 25 soldati. Era un'indagine lunga 4 anni lanciata dall'Australian Defence Force, le forze armate australiane. Secondo l'accusa, 25 militari sarebbero responsabili dell'uccisione a sangue freddo di 39 tra civili e prigionieri afghani, trattamento disumano e degradante applicato ad almeno 2 prigionieri. I fatti risalgono al periodo che va tra il 2009 e il 2013, in un contesto, si scrive e si legge negli atti dell'accusa, di nonnismo, sopraffazione diffusa da parte dei militari più anziani alle reclute più giovani. Alcune pattuglie dei nostri militari si sono fatte giudice, giuria e boia, hanno infranto tutte le regole, hanno raccontato menzogne. Così, con grande amarezza, in una conferenza stampa ha parlato il generale Angus Campbell, a capo di Stato Maggiore delle forze australiane. E poi in queste ore prosegue lo stallo all'europea. I leader dell'Unione stanno discutendo proprio mentre vi parlo in un vertice virtuale come superare l'impasse creata, lo raccontavamo ieri, da Polonia e Ungheria, che hanno messo il veto sulla pioggia dei miliardi del Recovery Fund. Secondo Reuters è improbabile che la soluzione arrivi entro la settimana. Al di là del piano strettamente economico, come raccontavamo ieri, è evidente che c'è un'ennesima prova, uno stress test per l'Unione Europea che a questo punto è tutta politica, con quel vincolo all'erogazione dei fondi legata al rispetto o meno dello Stato di diritto. Questi sono i nostri dossier internazionali, sono fatti, notizie, sono argomenti a cui stiamo buttando l'occhio, gettando la nostra attenzione e che diventeranno prossime puntate di Nessun Luogo Lontano. Adesso però vi raccontiamo come la corsa al vaccino sta già cambiando il nostro mondo. E fra i primi messaggi che arrivano al 349-238-6666 c'è uno che ritengo particolarmente efficace. Il Covid unisce nella pandemia e nella crisi, scrive un ascoltatore, il vaccino dividerà nella politica e nell'economia. Ed è proprio per questo che alcune grosse organizzazioni del terzo settore, tra cui Medici Senza Frontiere, hanno lanciato una serie di appelli, una serie di allarmi. Il primo riguarda la sospensione della proprietà intellettuale proprio dei vaccini. Perché sarebbe importante? Lo chiediamo a Claudia Lodesani, presidente di Medici Senza Frontiere Italia. Presidente Lodesani, buongiorno, ben ritrovata. Buongiorno e grazie per l'invito. Allora, sarebbe importante perché chiaramente il fatto di sospendere la proprietà intellettuale, cioè i brevetti che governano, no, il mondo farmaceutico, ma non solo, anche in seguito alla richiesta del Sudafrica e dell'India, che verrà discussa domani all'Organizzazione Mondiale del Commercio, quindi sì, assolutamente supportata. Questo permetterebbe sicuramente che ci siano tanto di rendere il vaccino, ma non solo, tutto quello che è legato al Covid un bene comune, quindi molto più accessibile a tutti, molto più equo, sì, e poi permetterebbe anche ad altri stati di produrlo, quindi avere una copertura più grande, maggiore, e quindi anche di controllare meglio la pandemia. Quindi sì, è fondamentale questo passaggio, che è stato fatto comunque anche in passato per altre grandi epidemie. È stato fatto per esempio per i farmaci generici per l'HIV e l'AIDS, no? Che sono stati resi a prezzi accessibili, salvando evidentemente milioni di vite. E sto leggendo i comunicati che state facendo in questi giorni, devo dire molto fermi e molto chiari anche sul tipo di richieste. Tra le richieste, presidente Lodesani, c'è anche quella che potremmo, come dire, sintetizzare in una parola sola, che è trasparenza. Trasparenza sugli accordi commerciali, ma anche sull'efficacia di questi e sui test condotti. Stiamo assistendo a una rincorsa nella rincorsa, in cui tra le varie aziende farmaceutiche si sfidano a colpi di 0, qualcosa percentuale per come dire, vendere la maggiore efficacia del proprio vaccino, il tutto perché in realtà non c'è una grossissima trasparenza. Esatto, non c'è una grossa trasparenza. Gli accordi che sono fatti dalle case farmaceutiche, e i vari governi non sono pubblici, o lo sono solo in parte, quindi sappiamo che tutte e sei i vaccini insieme hanno ricevuto almeno 12 miliardi di dollari di fondi pubblici, però sì, non sappiamo il costo e gli accordi che ci sono dietro questi finanziamenti, e quindi la trasparenza ci sembra fondamentale insomma, sia per renderla pubblica, sia per capire quali sono i reali prezzi di gestione, e quindi anche fissare poi i prezzi che bisogna pagare, no, per i vari vaccini. Certo. E questo permetterebbe anche comunque diciamo una politica, decisioni politiche più eque e più trasparenti anche da parte dei governi. Quindi è fondamentale che tutto questo sia reso trasparente e che non venga fatto solo comunicati stampa, ma ci vogliono risultati, vanno resi pubblici gli studi fatti sui vaccini, perché certo, anche questo per ora è abbastanza ambiguo, comunque non completamente sono resi pubblici. Adesso noi stiamo chiedendo, perché chiaramente vogliamo sapere se questi risultati, come si è arrivati ai risultati, con quali studi e quali sono le controindicazioni, insomma quello che si fa normalmente in qualunque altro farmaco, qualunque altro vaccino. E non c'è dubbio però che il valore di questo vaccino del Covid-19 per questa devastante pandemia ha un valore che non è strettamente sanitario, curativo, ma promette di ridisegnare gli equilibri e i pesi delle grandi potenze nel mondo, e anche per questo evidentemente bisogna far sì che tutti gli attori coinvolti omaggino la parola, ancora una volta, trasparenza. Questo è l'appello che arriva da MSF, e le parole sono quelle di Claudia Lodesani, presidente di MSF Italia, che ringrazio. Lodesani, buona giornata e buon lavoro, alla prossima. Grazie a voi, arrivederci. 349-238-6666, un altro ascoltatore. Non sarà pura utopia ai tempi del piano Marshall che una potenza non ha una simile occasione di fare la differenza nella ripresa della sua sfera di influenza? Se non fosse così importante, conclude, Stati Uniti, Russia e Cina non farebbero a gara? Ed è proprio questo il tema, è proprio questa la domanda a cui tenteremo di dare una risposta in questa puntata di Nessun Luogo è Lontano. È utile però a questo punto fare un piccolo passo indietro. Abbiamo parlato di gara, di corsa ai vaccini, ma quali sono i vaccini? Li abbiamo sintetizzati, non chimicamente evidentemente, ma a parole in 90 secondi, sentite. Secondo il Clinical Trial, database che raggruppa tutte le sperimentazioni farmaceutiche attive nel mondo, sono 52 i vaccini contro il Covid-19 in fase di sperimentazione, ma solo 10 di essi hanno raggiunto la fase 3. Gli Stati Uniti hanno 4 candidati. La Pfizer, in collaborazione con la tedesca BioNTech, ha dichiarato che il suo vaccino ha un'efficacia superiore al 90%. Le sperimentazioni della Moderna hanno invece registrato tassi di efficacia del 94,5%, mentre ha raggiunto la fase 3 anche il Matrix M1, sviluppato dalla Novavax. Infine, l'azienda farmaceutica Johnson & Johnson ha recentemente ripreso la sperimentazione clinica del suo AD26. Segue la Cina, con 3 possibili candidati. Il vaccino sviluppato dal colosso farmaceutico CanSino Biologic, il CoronaVac, prodotto dalla Sinovac, e la ricerca condotta dal Beijing Institute of Biological Products. Ma c'è anche la Russia, prima al mondo a registrare ufficialmente il suo Sputnik V come vaccino anti-Covid-19. Il nome è stato scelto per ricordare il primo satellite sovietico, mentre la V sta per vaccino. Mosca sostiene che il farmaco messo a punto dall'Istituto Nazionale di Epidemiologia con il sostegno del Fondo Sovrano Russo abbia un'efficacia del 92%. Dopo una brusca battuta d'arresto è tornata in gioco anche l'anglo-svedese AstraZeneca, che in collaborazione con l'Università di Oxford ha ripreso la sperimentazione clinica del suo vaccino. A chiudere la classifica, il Brasile. Il vaccino Profiscov, sviluppato da Butantan Institute, ha infatti raggiunto la fase 3 di sperimentazione. E così in 90 secondi abbiamo sintetizzato quella che abbiamo chiamato la corsa al vaccino, che attenzione non è soltanto un fine trovare il vaccino e distribuirlo alla popolazione, ma è questo saremo naif a non raccontarlo, a non esserne consapevoli, è anche una leva per ridisegnare gli equilibri del mondo. Ci concentreremo in questa puntata soprattutto sul ruolo di Russia e di Cina, ma anche almeno parzialmente racconteremo gli Stati Uniti. Ma c'è un ma, anzi ce ne sono un paio, che sono due ma di natura strettamente legale. E quindi do il mio buongiorno e benvenuto nel suo luogo lontano anche all'avvocato Elena Cristofori dello studio Rapisardi Intellectual Property. Avvocato, buongiorno. Buongiorno. In un recente articolo pubblicato proprio sul Sole 24 Ore, lei scriveva le due possibili mosse dei governi nel mondo per, aiutare a far sì che questo vaccino sia altamente democratico, mettiamola così, cioè possa arrivare a tutti. E quali sono queste due strade? Sì, allora le due strade al momento che sono state utilizzate sono, nel caso di Gran Bretagna e Canada, la depenalizzazione dello sfruttamento dei brevetti legati al coronavirus, quindi l'eliminazione del reato di contraffazione su qualsiasi prodotto legato alla gestione dell'emergenza, mentre altri paesi come Germania, Israele, Cile ed Ecuador hanno optato per le licenze obbligatorie, quindi obbligano i titolari dei diritti a darne licenza a chiunque lo richieda. In entrambi i casi ovviamente l'obiettivo finale è di permettere ai centri di ricerca di condividere le scoperte in ambito scientifico il più possibile e di accelerare lo sviluppo di nuovi prodotti per combattere il virus. Sì. L'avvocato Elena Cristofori ci sta raccontando due strade diversissime e che, come dire, si riflettono nella postura però di stati e anche governi molto diversi. Da una parte Regno Unito e Canada, diceva l'avvocato Cristofori, dall'altra parte Cile, Israele, Ecuador e Germania. Ci sono delle controindicazioni secondo lei? Nel senso che una strada potrebbe essere più agile, più veloce, anche politicamente più digeribile rispetto all'altra? Ma Allora, la prima questione da affrontare è che l'eliminazione della tutela brevettuale, soprattutto in campo farmaceutico, è sempre molto delicata e deve essere circoscritta a situazioni particolari come questa, perché emergenze sostanzialmente. Vediamo già nei casi di malattie molto rare, se si toglie a chi investe in ricerca la possibilità di guadagnarne, non c'è più investimento. Certo. La seconda questione è che se la depenalizzazione, come fanno quindi Gran Bretagna e Canada, sì, è un pochino più complessa, nel senso che tutti possono produrre ma non sono a conoscenza dei risultati della ricerca, la licenza obbligatoria dà a tutti il testo del brevetto, quindi sì, quello che c'è scritto, quindi quello che il singolo ricercatore ha scoperto, quindi è certamente il migliore da un punto di vista quantomeno farmaceutico. Certo. Anche perché, avvocato, mi corregga se sbaglio, ma la prima strada sostanzialmente è quella che depenalizza un eventuale sfruttamento di un brevetto altrui, ma diciamo, visto che la formula chimica, non sono un esperto, quindi perdonerete le mie sbavature lessicali, non è a disposizione, vuol dire che quella formula sarà prodotto di un hackeraggio o di che altro? Sì, esatto, infatti la licenza obbligatoria o l'espropriazione nel caso sarebbe certamente migliore, nel senso che significa dare a tutti la formula e dire eccola, usatela gratuitamente e usatela per il bene. Certo. Mentre la depenalizzazione significa semplicemente, benissimo, prendi questo farmaco e ricreatelo da solo. Chiarissimo. Un'ultimissima domanda, se può rispondermi con uno slogan, avvocato Cristofori. Il fatto che Regno Unito e Canada stiano lavorando, si stiano indirizzando, diciamo, verso la depenalizzazione dello sfruttamento del brevetto, ha a che fare anche col sistema normativo di questi paesi? Cioè la common law è come dire un asse portante per prendere poi questo eventuale indirizzo? Ma no, non ritengo sinceramente, nel senso che da un punto di vista di proprietà intellettuale comunque le normative sono più o meno molto simili a livello europeo e mondiale, quindi no, non credo che la common law sia il motivo per cui stanno andando in questa strada. Sì. Probabilmente è una scelta meno impopolare con cui iniziare. Quindi forse più puramente politica, poi staremo a vedere se nel breve e nel lungo termine avranno esiti differenti anche sull'impatto, sull'opinione pubblica. Ringrazio tantissimo l'avvocato Elena Cristofori, il studio è Rapisardi Intellectual Property, ha aggiunto un tassello fondamentale in questo nostro viaggio che stiamo compiendo. Avvocato, buona giornata e buon lavoro, alla prossima. Arrivederci, grazie. Torniamo allora ai grandi attori che stiamo cercando di esplorare, di spogliare, diciamo, delle loro intenzioni reali. Il vaccino sì è un obiettivo, curare il Covid-19 ovviamente è l'obiettivo, però evidentemente questa è una ghiotta opportunità, come ricordava un ascoltatore, dal piano Marshall che non sia una opportunità del genere per le grandi potenze. Cosa sta facendo la Cina? Beh, sostanzialmente l'avete sentito dalla scheda, ha un arsenale piuttosto nutrito di vaccini, ma sarà molto molto difficile che questi vaccini possano penetrare il mercato europeo per una serie di distanze, anche a livello di controlli, di procedure burocratiche, amministrative, eccetera. Ma cosa sta facendo la Cina? La sintetizzo in maniera veramente molto molto veloce. Sta perdendo la via della seta fisica e quindi forse sta inaugurando quella sanitaria, già avviata peraltro con l'invio massiccio di mascherine, di respiratori, di medici. L'obiettivo molto probabilmente di Pechino è di penetrare molti molti paesi, forse anche rendendoli in alcuni casi debitori, penso a Argentina, Bahrain, Bangladesh, Brasile, Egitto, Emirati Arabi Uniti, Indonesia, eccetera eccetera eccetera. E poi invece abbiamo la Russia che si è fatta sentire proprio con le parole di Vladimir Putin, che in qualche modo ha tirato in ballo anche la sua esperienza personale e la sua famiglia. Sentite. Una delle mie figlie è stata sottoposta al vaccino. Come dire, ha preso parte alla sperimentazione. Dopo la prima iniezione ha avuto la febbre a 38 gradi. Il giorno dopo è calata a 37. E questo è tutto. Anche dopo la seconda iniezione ha avuto un po' di febbre, ma è passata subito. Ora sta alla grande. Il nostro viaggio, la nostra puntata oggi a Nessun Luogo Lontano è punteggiato dai vostri messaggi, i vostri commenti al 349-238-6666. Un ascoltatore assurdo che nessuno chieda conto alla Cina dell'omertà, dei comportamenti tenuti nei confronti di tutto il mondo sulla pericolosità e diffusione del virus. In realtà già Pechino sta pagando dazio, e dal punto di vista politico c'è stato un momento di forte isolamento, addirittura non dico che Xi Jinping, come dire, gli abbia tremato la sedia, però sicuramente la percezione all'esterno della Cina prima del Covid-19 era sicuramente diversa, quando in pompa magna si preparavano a spianare le strade alle grandi arterie marittime, aeree e navali della Via della Seta. Adesso Pechino si deve concentrare su ben altro. E poi ci sono state delle class action contro la Cina, se non erro partivano le prime proprio dagli Stati Uniti. Fatemi però tornare, tra poco tornerò ai vostri messaggi, a quello che è Sputnik V, il vaccino registrato dal Ministero della Salute russo l'11 agosto del 2020. È lui che ha vinto la prova, questa corsa, il primo vaccino al mondo contro il Covid-19. Mosca sostiene che il vaccino messo a punto dall'Istituto Nazionale di Epidemiologia e Microbiologia Nikolai Gamaleya di Mosca, con il sostegno del Fondo Russo per gli Investimenti Diretti, abbia un'efficacia del 92%. I test condotti in Russia finora riguardano 40.000 volontari. Altri numeri: le autorità russe prevedono di riuscire a produrre 500.000 dosi entro la fine di novembre e oltre 1 milione, pensate, nel mese di dicembre. Naturalmente la Russia ha immediatamente bollato lo scetticismo rispetto alla solidità scientifica di Sputnik V come calunnioso e pregiudizievole. Ha detto ripetutamente tramite i suoi portavoci che il sistema di somministrazione dello Sputnik è più sicuro, addirittura testato meglio rispetto ad altri vaccini, tra cui quello della Pfizer-BioNTech. Un altro tassello che è interessante per capire come si stanno posizionando Pechino, Mosca, ma anche Washington in mezzo, tra virgolette, ma anche fisicamente, ma non solo, c'è l'Unione Europea che si sta muovendo sul mercato dei vaccini in maniera piuttosto disinvolta. A settembre l'industria farmaceutica Dr. Reddy e il Fondo Russo per gli Investimenti Diretti hanno stretto una partnership per condurre sperimentazioni cliniche dello Sputnik proprio in India, e come parte di questa partnership verranno forniti 100 milioni di dosi del vaccino previa approvazione normativa in India. L'altro aspetto interessantissimo qual è? Che sostanzialmente con questa operazione, con questo utilizzo tutto geopolitico, tutto no, anche geopolitico del vaccino, la Russia sta in qualche modo rivitalizzando il BRICS, quel conglomerato di grandi attori internazionali che aveva fatto tanto innamorare analisti geopolitici e giornalisti qualche anno fa e poi sembrava essere evaporato totalmente. Questo è uno degli aspetti interessanti dell'utilizzo da parte della Federazione Russa dello Sputnik. L'altro aspetto è che è quasi un approccio sovietico, nel senso che Mosca ha prodotto da sé con i propri fondi, con le proprie aziende questo vaccino, lo sta testando sulla Russia. Pensate, ci sono delle chat Telegram con nomi e indirizzi e nomi del gruppo altisonanti che omaggiano il popolo che si presta ai test e alle prove di questo vaccino. Appunto, sembrano in qualche modo riecheggiare tempi pre-muro, pre-caduta dell'Unione Sovietica. Poi naturalmente c'è Moderna, che omaggia ovviamente America First, ricordiamolo, nasce da un formidabile impulso da parte dell'amministrazione di Donald Trump. In mezzo c'è l'Unione Europea, però tutti questi esempi che vi ho portato sostanzialmente sono esempi anche di isolazionismo sanitario e anche geopolitico. Ci si fa il vaccino, ognuno per sé, poi si cerca di penetrare magari alcuni mercati, si prova a usare la leva del debito, come potrebbe fare la Cina in mercati più fragili. Eppure ci sarebbe una terza via, ne parlammo a luglio, ne parlammo proprio con Emanuele Capobianco, responsabile salute Federazione Internazionale Croce Rossa. Capobianco, buongiorno e ben ritrovato. Buongiorno a lei. Allora, dottor Capobianco, c'era questa terza via, quella del COVAX, che fine ha fatto? La risposta me la dà subito dopo la borsa, andiamo a vedere come stanno andando i mercati. Ma è possibile che c'è? Le piroette della politica, le notizie che arrivano da ogni parte del mondo, la cronaca nera, la cronaca bianca, lo sport, gli spettacoli, io non ci capisco più niente. Ma come si fa a seguire tutto? Scusa, ma tu ascolti Effetto Notte? No. Ah, ecco, si capisce. Effetto Notte, di Roberta Giordano, dal lunedì al venerdì alle 21, su Radio 24. In modo che un giorno non potrete dire: io questa mica la sapevo. Nessun luogo è lontano. La geopolitica del vaccino promette di ridisegnare gli equilibri mondiali. Ce ne occupammo qualche mese fa, ma adesso i tempi sono maturi e abbiamo deciso di ritornare sul tema. Ne sia prova un incontro tenutosi in videoconferenza lo scorso 17 novembre. A seguito del 12° summit della BRICS, il presidente russo Vladimir Putin ha dichiarato che India e Cina inizieranno a produrre il vaccino Sputnik V. Il presidente russo ha anche proposto di accelerare la creazione di centri di ricerca sui vaccini proprio nei paesi della BRICS. Quindi attori che emergono, fantasmi del passato che sembravano evaporati del tutto, che si riaffacciano sul palcoscenico internazionale, e grandi potenze che provano a gestire al meglio, dal loro punto di vista, quello che è il vaccino o i vaccini che hanno in mano adesso. Certo non in nome del multipolarismo, certo non in nome di un dialogo, quello invocato da tanti ascoltatori al 349-238-6666. Però Emanuele Capobianco, responsabile salute Federazione Internazionale di Croce Rossa, ci ha raccontato qualche tempo fa e ci riracconta lo stato dell'arte del COVAX, che è forse la terza via. Che fine ha fatto e che cos'è? La risposta al nazionalismo dei vaccini e ad una battaglia di egemonia geopolitica combattuta sui vaccini esiste e si chiama COVAX. COVAX è una iniziativa lanciata ad aprile dalla Commissione Europea, dall'Organizzazione Mondiale della Sanità, che porta con sé 170 paesi con la finalità di distribuire fino a 2 miliardi di vaccini entro la fine del 2021, e con la peculiarità che tutti i paesi partecipanti avranno uguale accesso ai vaccini in maniera indipendente dal livello di ricchezza, secondo principi di equità e di solidarietà. Noi della Croce Rossa abbiamo supportato proprio questa iniziativa fin dagli inizi e siamo felici di avere 170 paesi che hanno raggiunto COVAX. Tra questi è interessante notare che la Cina si è aggiunta di recente, gli sì. Stati Uniti d'America e la Russia invece ancora non ci sono. State ascoltando la voce di Emanuele Capobianco, responsabile salute, Federazione Internazionale della Croce Rossa, che ha messo un tassello importantissimo, fondamentale, ne parlavamo già a luglio, la piattaforma COVAX, che poteva essere una risposta multilaterale e globale alla pandemia. Poi però evidentemente alcuni appetiti geopolitici hanno prevalso, perché la leva del vaccino, il potere del vaccino evidentemente fa gola a tanti, anche per magari ridisegnare alcuni equilibri. Poi però c'è un altro problema, Emanuele Capobianco, è quello della distribuzione dei vaccini e del coinvolgimento delle comunità, sto pensando a quelle più fragili e più povere, dalle zone remote dell'America Latina a quelle dell'Africa, e lì si apre un grandissimo punto di domanda. Assolutamente, l'approvvigionamento dei vaccini è solamente la prima tappa che ci porterà a distribuire i vaccini nel mondo nel 2021 e nel 2022. Io vedo due grosse difficoltà che dovevano essere affrontate fin da ora. Uno è il problema della logistica, garantire una distribuzione efficiente sarà molto complesso, e i piani per la distribuzione dei vaccini devono cominciare ora per non trovarsi impreparati, e non solo nei paesi di sviluppo, anche in paesi europei. L'altro grande problema sarà quello di vincere l'esitazione, la paura, le domande, i dubbi della popolazione, che noi sappiamo emergono quando si introduce un nuovo vaccino, sì. Anche qui non solo in paesi in via di sviluppo, ma no. Anche in altri paesi. Assolutamente. E su questo sarà fondamentale lavorare sul rapporto di fiducia con la popolazione, e lavorare in maniera molto stretta con i sistemi di informazione per un'informazione accurata. E noi di Croce Rossa che lavoriamo proprio sulla fiducia con i cittadini nel mondo attraverso i nostri volontari, continueremo a spingere per questo sia nei paesi in Europa, ma soprattutto nei paesi più poveri, anche nei paesi in conflitto, dove la Croce Rossa va al di là, è davvero uno dei pochi interlocutori con credibilità nella popolazione nella distribuzione di servizi sanitari. E lì le sfide evidentemente si sovrappongono, non soltanto il Covid-19, citavo ieri la fine di epidemia di Ebola, voi eravate e siete tuttora in prima linea, immaginate, gentili ascoltatrici e ascoltatori, cosa significa combattere Covid-19, Ebola, e magari aggiungete un paio di pallottole da schivare, ma tant'è, la grande attualità ci consegna anche questi teatri. Grazie mille Emanuele Capobianco, responsabile salute Federazione Internazionale di Croce Rossa, buona giornata e buon lavoro. Grazie a voi. Un po' di domande, di commenti degli ascoltatori al 349-238-6666. Un ascoltatore, credo Roberto, sì, Roberto scrive da Roma, chiede Lumi sul vaccino cubano. Allora, abbiamo fatto l'elenco dei paesi, diciamo, che sono più vicini alla linea di arrivo sostanzialmente, però anche Cuba, anche il sistema sanitario cubano sta lavorando. Se convalidato il vaccino, sarà distribuito gratuitamente nell'isola. Il vaccino si chiama Soverana 01, dovrebbe terminare i test clinici nei primi mesi del 2021, non è al momento in fase 3, questo per completezza di informazioni. E poi, visto che ci stiamo per aprire il lungo capitolo cinese, c'è un ascoltatore che, con un tono posso definire irriverente: la Cina cosa sta facendo? Sta già facendo vaccinazioni di massa con tanti punti esclamativi, lo sanno anche i sassi, ecco perché non hanno più casi. Allora, noi non siamo sassi e quindi non lo sappiamo. Allora, per introdurre la pagina cinese, mi affido alla copertina curata da Valentina Ternullo e Valeria Bernardi. Quando sono andato in visita in Kazakistan e Indonesia nel 2013, ho proposto di creare insieme una via della seta per la crescita delle nostre economie e una nuova via marittima del XXI secolo. Around the world. 600.000 persone sono già morte nel mondo per via del coronavirus. Nel fronteggiare il Covid-19, la Cina ha agito con apertura, trasparenza e responsabilità. Abbiamo fornito le informazioni di cui eravamo in possesso all'Organizzazione Mondiale della Sanità e agli altri paesi. This is one of the most promising candidates in the global race for a vaccine. Questo è uno dei candidati più promettenti nella corsa globale al vaccino. While the world awaits a coronavirus vaccine, mentre tutto il mondo sta aspettando un vaccino per il coronavirus, hundreds of thousands in China are receiving their second jab of one being tested there. Centinaia di persone in Cina lo stanno già ricevendo. 4 days ago, 4 giorni fa, I made a plea to President Xi Jinping. Ho pregato il presidente cinese Xi Jinping, if they have the vaccine, qualora dovesse avere il vaccino, can they allow us to be one of the first, di essere tra i primi a poterlo ricevere. E l'ultima voce che avete sentito in questa copertina era quella di Rodrigo Duterte, presidente delle Filippine, che tenta un tentativo di ingraziarsi in qualche modo Xi Jinping. Lo dicevamo, il vaccino per il Covid-19 non è soltanto il fine, ma diventa un mezzo, una formidabile arma per stringere magari nuove alleanze, oppure crearsi nuovi nemici, o andare, come nel caso della Cina, a ridisegnare quella che potremmo definire la via della seta sanitaria. Però buongiorno e ben ritrovata a Nessun Luogo Lontano anche a Giulia Sciorati, ricercatrice di ISPI. Sciorati, buongiorno. Buongiorno a voi. Allora, la scorsa settimana, durante un incontro della Shanghai Cooperation Organization, Xi Jinping ha detto: non bisogna politicizzare il vaccino, che ha ottenuto, questa frase, il plauso di Vladimir Putin. Eppure sembra che sia proprio Pechino a politicizzarlo, almeno da un certo punto di vista, perché da un lato la Cina deve recuperare la faccia dopo quello che è accaduto, dall'altro abbiamo fatto l'elenco delle varie nazioni nei quali sta penetrando con testa a tappeto e sembra in qualche modo riesumare una via della seta sanitaria. È davvero così? Beh sì, diciamo che dopo il grande shock che ha avuto la reputazione internazionale cinese durante la pandemia, che è andata di fatto a ledere l'idea di una Cina come stakeholder responsabile nelle relazioni con gli altri paesi, il vaccino è un po' il momento, attraverso lo strumento attraverso cui Pechino cerca perlomeno di passare da questa immagine di untore globale a in realtà medico in qualche modo. E quello che si prefigura per il 2021 è proprio l'utilizzo di questo vaccino come una moneta di scambio, se così vogliamo chiamarla, perlomeno a livello diplomatico, che Pechino è pronta ad utilizzare per riacquisire i consensi a livello internazionale. Sì. State ascoltando l'analisi di Giulia Sciorati, ricercatrice ISPI, esperta di Cina, ed è il primo tassello in quest'ultima tappa del nostro viaggio qui nel suo luogo lontano. Capiremo meglio quali sono le ambizioni di Pechino e come useranno il vaccino del Covid-19. Lasciamo le strade, quelle della Via della Seta, andiamo su quelle italiane e poi l'ultima pagina di Nessun Luogo. Nessun luogo, nessun luogo è lontano. Il ruolo della Cina, fino a qualche mese fa untore del mondo e poi adesso sta cercando di riciclarsi, rinnovare la propria immagine come salvatore del mondo. Sto estremizzando evidentemente, sto usando delle iperbole, però se ricordate bene a maggio Xi Jinping aveva promesso che il vaccino cinese sarebbe stato un bene pubblico mondiale. In questo momento i test della fase 3 dei vaccini cinesi sono in corso in 18 paesi, ve li ricapitolo: Argentina, Bahrain, Bangladesh, Brasile, Egitto, Emirati Arabi Uniti, Indonesia, Marocco, Pakistan, Perù, Russia, Arabia Saudita e Turchia. E non a caso, come fa notare molto acutamente uno degli ascoltatori al 349-238-6666, alcuni sono degli hotspot, sono dei paesi fondamentali, anche degli hub per il commercio, sono delle porte d'ingresso su altri continenti. Torniamo alla voce e il commento di Giulia Sciorati, ricercatrice di ISPI. C'è un aspetto interessante, Giulia Sciorati: tra le nazioni coinvolte dalla Cina c'è in prima linea il Messico. Il colosso sanitario cinese CanSino ha stretto un accordo per la vendita di 70 milioni di vaccini e la Cina, guarda caso, fornirà un prestito. Ma cosa fa Pechino? Entra dal vicino degli Stati Uniti con un vaccino per rispondere più o meno indirettamente, anzi direi faccia a faccia, a Washington e al suo Moderna? Beh, sicuramente la diplomazia dei vaccini entrerà, già l'ha fatto, ma entrerà sempre di più nella competizione tra Cina e Stati Uniti. Il Messico è sicuramente uno dei casi più eclatanti. Vorrei ricordare però, oltre, ottima l'osservazione del vostro ascoltatore, ma vorrei anche ricordarvi che tutti questi paesi sono paesi in via di sviluppo, perlomeno la maggior parte, e questo è un elemento importante che caratterizza anche la questione messicana. La Cina infatti sta puntando a tutti quei partner strategici per la nuova Via della Seta che, guarda caso, coincidono anche con i paesi in via di sviluppo. Certo. E gli Stati Uniti si sono mostrati molto contrari al momento a tutte le proposte fatte dall'Organizzazione Mondiale della Sanità per la fornitura di vaccini in primis ai paesi più fragili, proprio perché gli Stati Uniti hanno in questo momento questo rapporto estremamente conflittuale con l'OMS, per cui la Cina in qualche modo riesce a subentrare di nuovo nel sistema internazionale, partendo proprio, prendendo in qualche modo due piccioni con una fava e partendo proprio dai paesi che più hanno bisogno di un vaccino e di un aiuto per ottenerlo e che sono anche nodi importantissimi per la Via della Seta. E a quel punto, come dicevamo all'inizio, forse non sta abbandonando la Via della Seta infrastrutturale, anche se molti cantieri sono stati bloccati a causa della pandemia, diciamo che la sta rinnovando, la sta sovrapponendo alla cosiddetta Via della Seta sanitaria. Però Giulia Sciorati, sullo sfondo, ma forse neanche tanto, c'è il problema del debito, perché a quel punto, come ha fatto con le grandi infrastrutture della Via della Seta, sto pensando al porto del Pireo per citare un caso molto vicino a noi, Pechino entra ma poi bisogna ridargli i soldi. Questo può creare nel lungo termine per quei paesi in via di sviluppo un serissimo problema. Sì, assolutamente. Il debito e il rapporto tra la Cina e i paesi in via di sviluppo è sempre al centro delle problematiche e del rischio. Certo è che secondo me nel prossimo periodo soprattutto, poiché l'obiettivo cinese è proprio quello di restaurare un po' la sua immagine internazionale in modo tale da continuare ad avere consensi, che sono importantissimi in questo momento, cercherà di diminuire un po', perlomeno nel primo periodo, la pressione e la narrativa riguardo il debito in questi paesi. Certo. E ancora una volta abbiamo la prova come Pechino, nonostante questi incidenti gravissimi di percorso, insomma si sappia muovere nel grande quadrante mondiale con astuzia, con lungimiranza, ma soltanto in lungo termine ovviamente ci darà una risposta. Nel brevissimo invece mi tocca ringraziare tantissimo Giulia Sciorati, ricercatrice ISPI, esperta di Cina, e darle l'appuntamento alla prossima volta. Buona giornata, a presto. Buona giornata. D'altra parte, per aggiungere l'ultimo tassello alla pagina cinese, sappiamo, vi ho ricordato, perché il vaccino cinese difficilmente arriverà in Europa, Stati Uniti e Giappone. C'è proprio una diversità di forma, di sistema, di analisi, di come vengono condotti i test. Moltissimi sono cittadini cinesi volontari, qualcuno però, alcune fonti sussurrano che si starebbero conducendo dei test per esempio nei carcerati, in alcune istituti penitenziari. Le ultimissime considerazioni prima di salutarci e darvi appuntamento a domani. Il vaccino rischia di essere la cura di un male, ma anche un nuovo male. Sto estremizzando, mi rendo conto, ma proviamo a riflettere su alcuni punti. Se mal gestito, come abbiamo capito, diventerà fonte di asimmetria, potrà trasformarsi in un ulteriore acceleratore di disuguaglianze, e allora che nuovo mondo produrrà? E poi avremo vaccini diversi per comunità diverse, l'immunità sarà uguale, per quanto tempo durerà? Vi ricordate, c'erano una volta i film catastrofici tipo Independence Day, Pacific Rim, in cui c'erano acerrimi nemici che alla fine, in nome dell'emergenza mondiale, combattevano insieme uno a fianco all'altro? Lo scienziato americano col pilota da caccia russo, l'eroe inglese col soldato di fanteria cinese. Ecco, alla fine, prima dei titoli di coda, un abbraccio collettivo siglava la vittoria del mondo sul male. Stavolta chi vincerà non lo sappiamo, ma a poter perdere sono in tanti, forse troppi. Di questo continueremo a parlare, quindi torneremo domani per fare cosa? Beh, la nostra missione, raccontare, raccontare, raccontare. Non prima, naturalmente, deve aver ringraziato per essere stati all'ascolto, aver ringraziato il grandissimo lavoro di tutta la squadra di Nessun Luogo Lontano. Intanto un saluto, noi ci sentiamo domani da Giampaolo Musumeci.